Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E siamo al secondo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, ben trovato. Ciao Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ripartiamo dai dati dell'Istat, il rapporto denominato Noi Italia, dati che sono sempre più sconfortanti. Già li abbiamo sentiti nei giorni scorsi, ma ci torniamo sopra con alcuni dettagli in più. Una famiglia su quattro è in disagio economico e il PIL pro capite è sotto la media europea. Dati sconfortanti che andiamo innanzitutto a commentare in maniera generale, poi ci addentriamo nei dettagli. Certo, dati sconfortanti, Mirko, quelli che sono emersi dall'ultima indagine dell'Istat proprio in occasione di quel quadro che ha voluto fare per verificare un attimino la situazione reale delle famiglie italiane. È un quadro che, oltre a essere risultato sconfortante, io aggiungo ancora più desolante se consideriamo che è stato fatto su quelli che sono i dati del 2012, quando certamente eravamo sicuramente in piena crisi, ma che questo trend ha continuato a ribasso, ma anche a svilupparsi soprattutto nel 2013, e quindi questo ci fa capire come la dimensione sarà ancora maggiore rispetto a quelli che sono i dati in cui noi adesso andremo a commentare assieme. Ecco, partiamo dalla definizione, un disagio economico, una famiglia su quattro, traduciamo in numeri perché altrimenti si rischia di appoggiarsi alle abitudini di ciascuno, uno può pensare di essere in disagio, un altro magari no, cioè qui ci sono dei numeri evidentemente a cui far riferimento. Certo, praticamente cosa vuol dire? Che una famiglia su quattro, per esempio, non è in grado di sostenere le spese impreviste, come per esempio possiamo pensare agli arretrati nei pagamenti o per esempio addirittura si parla di un pasto proteico ogni due giorni. Cosa vuol dire questo? Che sostanzialmente le famiglie, una famiglia su quattro riesce appena appena a sopravvivere, ma non è più in grado di affrontare un benché piccolo imprevisto. E addirittura mi viene in mente un'indagine che aveva fatto l'Adico l'anno scorso, quando si parlava di strategie per sopravvivere e arrivare a fine mese, ed era emerso come praticamente il 38% delle famiglie aveva dichiarato di non curarsi più, di non fare prevenzione, di aver rinunciato al dentista, di aver rinunciato all'oculistica e quant'altro. Poi addirittura da questo quadro è emerso come 6 famiglie su 10 vivono con meno di 2.500 euro netti. 2.500 euro possono sembrare anche una cifra di una certa rilevanza, ma quando si parla di famiglia bisogna capire che al netto si intendono due famiglie che lavorano, al netto delle detrazioni fiscali per i figli, per i coniugi eventualmente a carico a seconda di quanto prende, e di quelli che sono anche gli assegni familiari. Quindi parliamo di due persone che con tutte queste agevolazioni, e qua lo dico virgolettate, prendono poco più di 1.000 euro al mese, quindi per un totale di circa 2.500 euro al mese. Tutte queste persone, appunto, e sono sempre di più quelle con redditi scarsi o scarseggianti o addirittura assenti, ovviamente assumono dei comportamenti. Della sanità abbiamo già parlato, si tende a ridurre le spese, le automobili si tende a non cambiarle o a non ripararle. Non parliamo delle assicurazioni che qualcuno ormai inizia anche qui a non pagare, con rischio doppio per se stessi e anche per gli altri. C'è tutta una catena di conseguenze anche sui comportamenti. Ma certo, sicuramente, come possiamo parlare del canone della RAI, come possiamo parlare del bollo dell'auto, ormai la gente è disperata. Quando uno è povero, non è neanche proprietario di nulla, a un certo punto smette anche di preoccuparsi di quelle che potrebbero essere eventuali rivalse che potrebbero avere nei confronti del fisco, perché quando ci dicono noi non abbiamo più nulla, non lavoriamo, non abbiamo una casa, non abbiamo una busta paga, non abbiamo un'entrata, eccetera, a questo punto tagliano su tutto. Uno dei problemi più grossi, medico, che mi sono trovato a dover affrontare quello è di spiegare come la gente deve capire che lo Stato italiano c'ha un bilancio per esempio di circa 800 miliardi di euro all'anno. Certamente un bilancio che non può più essere garantito da un numero di contribuenti e di imprese che operano nel territorio come era qualche anno fa, e per cui questa conseguenza di dover mantenere un bilancio statale di un certo introito quando le uscite aumentano per effetto appunto di maggiori spese sociali, casse integrazioni e via dicendo, stranieri, extracomunitari e via dicendo, certamente va a rendere un fisco più oppressivo nei confronti delle famiglie, ma anche va ad aumentare quelli che sono poi le percentuali di incidenze sui redditi netti. Il fisco diventa sempre più pesante e il fisco comincia a dare sempre, porta via sempre più quello che è il margine utile per poter poi sopravvivere e far fronte a quelli che sono anche delle necessità. Ma poi a fronte di questo quadro che l'Istat ha pubblicato, certamente ci sono anche altre voci importanti, perché poi la gente smette di comprare i quotidiani, quindi smette di leggere, addirittura non riescono più a mandare figli a studiare all'università, si spende meno sull'ambiente, sull'agroalimentare, quindi c'è meno salvaguardia e tutela del territorio, e c'è meno costi per quanto riguarda anche la sicurezza, perché poi anche i comuni per quadrare quelli che sono i bilanci vanno a rivedere tutte quelle che sono delle strategie che operano nei territori. Noi per esempio abbiamo denunciato tante volte come i comuni, per esempio molti, di notte spengono l'illuminazione pubblica, tendono ad accorpare i vigili tra comuni, quindi diminuendo quella che era anche una sorveglianza, un presidio che avevano nei territori. Quindi si scatena tutta una serie di iniziative che certamente vanno a esporre i cittadini da una parte a una maggior disponibilità di reddito, ma dall'altra anche a maggiori conseguenze di rischi e di servizi che comunque oggi diventano sempre più precari e sempre più insufficienti a far fronte anche a delle sopravvivenze, come abbiamo detto, anche delle famiglie che vivono, di individui che vivono in povertà assoluta. Gli aspetti da approfondire sono tantissimi, il tempo però purtroppo è sempre tiranno, allora su alcuni di questi magari ci torneremo sopra più in dettaglio nelle prossime occasioni. Grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, alla prossima. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.